E allora torniamo in diretta, abbiamo al telefono una compagna del Centro Donna Lisa. Ciao, ben trovata. Ciao. Allora, ci sentiamo questa settimana, abbiamo parlato insomma anche la settimana scorsa, ai noi insomma, di questa mobilitazione che avete lanciato. E vabbè, il Centro Donna Lisa, io credo che chi ci ascolta vi conosce, insomma, comunque è un centro, un centro donna aperto da 15 anni nel quarto municipio. E adesso, insomma, nelle ultime settimane viene fuori che nel quarto municipio vogliono aprire un altro sportello, uno sportello di mediazione familiare. E magari puoi, insomma, parlarci un attimo di questo progetto. Praticamente loro hanno aperto uno sportello. È già aperto dal 6 dicembre scorso. Aperto. Noi l'abbiamo saputo dai giornali locali di quartiere, dove era ben pubblicizzato, uno sportello di ascolto per le donne vittime di violenza. E questo sportello è gestito, cioè non è di mediazione familiare. Noi siamo andate a vedere, ma il municipio ha aperto uno sportello, conoscendo insomma i nostri polli, siamo andati a vedere chi lo gestisce e abbiamo scoperto che era gestito, cioè era tenuto questo sportello da tre uomini, uno psicologo, uno psichiatra e due psicologi, uno psichiatra e poi una donna che è l'avvocata di questo. Sembra una barzelletta, ma e quindi si presenta come sportello? Questa è un'associazione che lavora già per il municipio e che fa delle consulenze, non so, per il municipio, per i servizi sociali, per esempio, e è gestito da un'associazione e questa associazione si occupa anche di mediazione familiare. Non ha assolutamente la violenza contro le donne tra i suoi scopi, anzi, se si va a vedere il sito, questa si chiama Associazione Helps e fa mediazione familiare, sostegno alla famiglia, perizie psichiatriche e poi c'è anche un CAF, non sia mai uno deve fare una dichiarazione dei redditi, c'è anche un commercialista, quindi questo è quello che fanno di solito. E a un certo punto hanno deciso di aprire uno sportello, così, un centro antiviolenza tenuto da psichiatra, non psichiatra, perché ovviamente la donna che subisce violenza ha bisogno di uno psichiatra. Chiaramente, a parte l'impostazione, ma ricordiamo anche chi è questo psichiatra, perché se non sbaglio, l'avevate detto anche nelle scorse corrispondenze, è uno dei, come si può dire, sostenitori della PAS, della sindrome di alienazione. No, loro praticamente peggio, secondo me, che da oltre la PAS siamo. Ah, sul suo blog, sempre se è tutto poi in rete, insomma, pubblicato nel loro, sempre ha un sito questa associazione Helps, in cui c'è una pagina, parla di separazioni, dell'affidamento dei figli nelle separazioni, e c'è una bella paginetta, anzi forse due, in cui si descrive molto bene la sindrome della madre malevola. Ecco. Questo, cioè oltre l'alienazione parentale, sì, siamo alla madre malevola, che è la madre cattiva che non vuol far vedere i figli al padre e quindi lo mette in cattiva luce. Insomma, questo è uno dei soggetti che deve gestire uno sportello. Chiaramente donna. Un lavoro che va totalmente incontro, diciamo, tendenza rispetto a quello vostro, ma anche di altri centri antiviolenza autogestiti o gestiti comunque dalle donne, che invece al contrario fanno un lavoro per portare fuori la donna dalla spirale della violenza e non certo, diciamo così. Diciamo che partiamo dal presupposto, appunto, che si tratti di una violenza di genere, agita da un genere su un altro, sulle donne. Sì, e che quindi è lì il punto da scardinare, non è il problema familiare di rapporti, insomma, sì, di rapporti, ma insomma tra uomini che violenti e che vedono un rapporto, insomma, basato sulla prevaricazione, ed è un problema culturale, come ovviamente diciamo sempre, diciamo tutte. Certo, ed è da pericolosissimo sempre. Non riconoscere questo aspetto, insomma, anche per le donne che si rivolgono magari in buona fede senza sapere. Certo. In queste situazioni. Voi come Centro Donna Lisa come vi state muovendo rispetto? Allora, noi avevamo già lanciato un appuntamento per giovedì scorso, perché abbiamo denunciato facendo volantini, manifesti, comunicati stampa, insomma, nel quartiere abbiamo reso evidente questa cosa, e ovviamente il nostro slogan era lo sportello pericoloso, cioè pericoloso per le donne, perché poi è questo il problema. E diciamo che l'opposizione, siamo anche in campagna elettorale, subito ha fatto una mozione per chiedendo la sospensione di questa di questo sportello, di questa attività. E quindi noi oltre a fare questa denuncia pubblica abbiamo ad aver scritto comunque alla circoscrizione, insomma, una lettera molto circostanziata in cui dicevamo che si trattava di uno sportello pericoloso, siamo andate anche il giorno in cui il Consiglio Comunale discuteva questa mozione presentata dall'opposizione, dove si chiedeva la sospensione del servizio. Oltretutto è stato affidato in un modo irregolare, perché l'hanno affidato senza un bando, senza una decisione, insomma, della giunta. Hanno fatto una memoria di giunta, che non è un atto con cui si possono affidare i servizi. Quindi questo ci fa capire anche, insomma, questa associazione così come ha avuto questo servizio, tramite l'assessore ai servizi sociali, di fatto. E quindi siamo andate a farci sentire, visto che discutevano di questo. Abbiamo anche un po' movimentato il Consiglio Comunale, che è stato sospeso, poi insomma ci hanno fatto parlare, molto pacatamente abbiamo esposto tutte le nostre ragioni, esatto, qual era il problema, e ovviamente senza scarsi risultati, perché l'ignoranza, l'arroganza e il maschilismo di questi personaggi ovviamente è sordo a ogni tipo di richiesta, e per cui la maggioranza ha presentato un emendamento in cui diceva diciamo che lo sportello di ascolto per le donne è diverso dal centro antiviolenza, punto. Lasciando il servizio così com'era, proprio non hanno capito niente. Praticamente nulla. Quindi anche voi perché ci tornerete. Sì, perché loro praticamente l'opposizione ha lasciato l'aula, quindi ha fatto cadere il numero legale necessario per votare questa cosa, altrimenti sarebbe passato questo emendamento, perché la maggioranza ha votato tutta compatta, e quindi si discuterà in seconda convocazione giovedì prossimo. Per cui rilanciamo di nuovo l'appello a essere presenti, anche se è un giorno lavorativo, se è a mezzogiorno, giovedì 14 alle 12, perché a quell'ora si riuniscono, si riunisce il consiglio del municipio IV a Piazza Sempione. Noi saremo, insomma, diciamo, fuori dal municipio e poi rientreremo di nuovo nel consiglio, e quindi insomma essere lì ovviamente serve, un po' perché ne devono discutere, un po' perché anche si capiscono bene certe dinamiche, insomma, certi personaggi che... Certo, ma anche far vedere che intorno a voi si è costituita comunque una rete, alla fine. Su questo volevo dire una cosa, perché noi abbiamo invitato le associazioni di donne e centri antiviolenza a mandare insomma delle attestazioni di solidarietà o di contrarietà contro questo sportello al municipio e al presidente del municipio, all'assessore ai servizi sociali, e praticamente loro mandavano sia fax che via mail, e oggi abbiamo scoperto che il municipio ha chiuso il fax, cioè non riceveva più fax. Veramente incredibile. Quindi il numero di fax è quello ufficiale, che sta nel sito, quindi pur di non ricevere, insomma, di non ascoltare le donne, questi hanno preferito chiudere il fax del municipio. Oppure forse è stato intasato dai troppi fax, ma insomma non so, spero che sia questa seconda ipotesi, però questo ci fa capire come sono questi personaggi, che ovviamente noi comunque vada al Consiglio Comunale, insomma, anche se voteranno per questa... non voteranno questa mozione per la sospensione del servizio, continueremo, non è che ci fermiamo perché firmano un fax o perché... Certo. Votano quello che vogliono nel consiglio comunale. Però siamo molto arrabbiate, perché siamo molto arrabbiate perché le donne ci muoiono, l'abbiamo sentito anche prima, no? Di violenza, e quindi questi maschi che si mettono lì a voler fare delle cose dannose per le donne, che sono maschilisti, fascisti, perché sono pure fascisti, e arroganti, veramente ci fanno arrabbiare, per cui speriamo di essere tante giovedì lì a mezzogiorno. Bene, allora sì, ripetiamolo, giovedì 14 a mezzogiorno al quarto municipio a Piazza Sempione, vi trovate sia dentro che fuori, insomma, quindi anche passare un attimo nei giri appunto quotidiani, e chi ha la possibilità ovviamente invitiamo a farlo, e anche a, se qualcuna dei centri antiviolenza ci sta ascoltando e ancora non l'ha fatto, a inviare queste mail. Comunque voi avete anche un sito che è www.centrodonnalisa.it, e lì si possono leggere, insomma, il vostro comunicato rispetto a questa vicenda del vostro municipio. C'è anche la pagina Facebook per chi vuole, sempre il Centro Donna Lisa. Bene, bene, con anche i vostri contatti, quindi qualsiasi azione vogliate intraprendere potete, insomma, comunicarvela. Bene, va bene, noi ti ringraziamo molto. A questo punto poi ci aggiorniamo la prossima settimana per sapere come procede. Dopo domani praticamente, fra due giorni. Eh sì. Il 14. E va bene, grazie a voi, come sempre. Grazie, un saluto anche a te. Ciao, ciao, ciao.